Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Io c'ho anche perfino il cagnolino. No, non ho detto gioia. Quando i politici non hanno più un cazzo da fare, si mettono a cantare in pubblico. L'hanno fatto anche da noi, in un momento di nulla facenza, in uno dei tanti momenti di nulla facenza totale. Lo diciamo con affetto, lo diciamo senza nessun tipo di acrimonia. Questa volta protagonista è addirittura l'ex segretario del Partito Democratico, Pierluigi Bersani. Un saluto quello di rock che le viene. Più rock mi viene. Un saluto a rock. Ci terrò Vasco e già io sono ancora qua. A proposito di autostrada per l'inferno, caro Parenzo, l'autostrada verso la quale tu dici che io sono incamminato, quando ieri ha detto sono impazzito per aver detto una cosa molto semplice, no? Semplicemente per aver detto quello che penso, cioè che una donna senza vibratore nella borsetta o dentro il comodino non è una vera donna. In realtà non è proprio così. Ho detto che una donna che non porta con sé il quotidiano Libero, magistralmente diretto dal nostro amico Belpietro, ha sentito il dovere di fare addirittura un pezzo su questa cosa. Ho detto semplicemente che una donna non è una vera femmina, non è una vera donna, una vera femmina, se con sé o in borsetta o in un cassetto non porta un sex toy. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Benvenuti alla Zanzara, amici della radio. Ho visto che hai messo anche nella sigletta il cane. Io ho anche perfino il cagnolino. Spiegheremo più tardi, a un orario più consono, che cos'è il cane. La notizia di oggi che riguarda il Partito Democratico è sicuramente l'innamoramento, l'amicizia molto affettuosa che lega, pensa te, una delle senatrici più anti-berlusconiane che ci sia, la signora Pezzopane, Stefania Pezzopane dell'Aquila, abruzzese, con una ex star di Uomini e Donne. È la notizia che mi ha appassionato di più. Se non le dimissioni di Errani. No, non le dimissioni di Errani, né l'assoluzione di Pier Silvio Berlusconi di Confalonieri nel processo Mediatrade. Come cambiano i tempi, no? Errani condannato e dimissionario. Addirittura i grillini chiedono il carcere. Beh, insomma, questo mi sembra un po' esagerato, francamente. Condannato e dimissionario dalla Regione Emilia-Romagna, mentre Pier Silvio Berlusconi e Confalonieri assolti da processo Mediatrade. Ma la notizia che mi ha più appassionato è Stefania Pezzopane, 54enne, separata, ex sindaco dell'Aquila, anti Berlusconi di ferro, che ha un'amicizia molto molto molto molto affettuosa con l'ex star di Uomini e Donne. E perché Pezzopane e Obama? Con impatto forte, perché il presidente Obama si è rivolto a noi camminando con una postura molto carismatica, davvero sembrava un grande attore, John Wayne che camminava con quell'incedere autorevole, in maniche di camicia. Ci siamo tutti molto emozionati, era importante che il presidente venisse nel centro storico e vedesse direttamente le ferite della città. A proposito di inglese, giudicate voi l'inglese del Presidente del Consiglio, eh? Sentite, sentite l'inglese di Renzi. Meucci is a very good Italian, but is also an history, a terrible history, because Meucci is the real inventor of telephone. I'm sorry with the American people present here, but also the Congress of United States in 2001, I didn't remember, recognize the founder, the inventor of telephone is Antonio Meucci. Porca loca, la Camilla, yes, my car, qui mi si sbraca. Ancora, ancora l'inglese di Renzi. Antonio Meucci is an incredible man, Florentine, who worked in the theater, in the most ancient theater of Europe, Teatro della Pergola. And he was a worker, so he invented the telephone to speaking about in the theater. A genius. Io al contrario sembro proprio un latticino. Adesso su Twitter già impazziscono i puristi dell'inglese. Io non do un voto negativo a questo inglese di Renzi, no, devo dire la verità. Ma it's a Tuscan English. Un ah, Tuscan English. Senti questa cosa in inglese, fight for a good idea. Senti. For a businessman, it's clear. We must have a good idea, but we must also have a commercial and a marketing structure. Because the idea without marketing and commercial structure, the results are not good. But for a country, this is also the representation of possibility. We don't si? Permit everybody si? To make the same conclusion of which. If there is a good idea, we must absolutely fight for this idea and defend this idea. Siamo al top, siamo al top, ragazzi. Adesso al top proprio no, al top no. Amici miei. Sì, lo so, Ruffini, ma in questo caso non c'è niente di top qua, Oh, a proposito di processione, qualcuno sai vuole fare... Mi hai fatto risentire Ruffini. Aspetta un attimo, devi stare fermo. La questione... Il premio Campiello, la presentazione del premio Campiello. Assolutamente, per la presentazione di tutti i premi, io direi. Sì, la questione del processo alla processione, che si sta facendo un processo alla processione, quella del paese calabrese lì. Io vorrei fare risentire così, tanto per gradire, un pezzettino della signora, la figlia del boss. La figlia del boss. Io col ministro Alfano questo gli devo dire, e il ministro Bindi, quella della legge antimafia, perché io li seguo in televisione, a me piace quello che fanno per la legalità, ha capito? Quindi io questo gli devo dire al ministro Alfano e alla ministra Bindi. Eppure mi hanno detto che il procuratore Gratteri, il giudice, non lo so che cos'è, che si stanno, non lo so che cosa stanno facendo. Io questo voglio capire da loro, io solo questo, perché non c'è stato niente di anomalo. Che frase... È carina da morire, quanta roba porca loca. Ma abbiamo con noi alla Zanzara di nuovo Monsignor Luigi Bettazzi, Monsignore Emerito di Ivrea. Buonasera Bettazzi, come sta? Buonasera. Come sta innanzitutto? Non c'è male, grazie. Senta Monsignor Bettazzi, ma lei cosa farebbe a quel prete di Oppida là, quel diavolo di città in Calabria? Don Rustico, ecco, al mitico Don Rustico. Lo sospenderebbe per avere, diciamo, no, consentito l'inchino? Gli direi non farlo più. Cosa credi? Che lui trovasse il modo, insomma, di dire forse a parte la persona, insomma, non bisogna, ecco, scendere ad onore a chiunque, ecco, anche al sindaco non sarebbe durante una processione. Quindi mi spiega che forse queste antiche abitudini non sono proprio adatte a una ha una funzione religiosa e che quindi... Ma non va spostato, Monsignor Bettazzi, spostato, sospeso, qualche provvedimento, qualche segnale anche da parte della Chiesa, che ha avuto un sacco di legami con la mafia negli anni, per carità, cioè non tutta sì, la Chiesa. È vero, è vero. Ma così sono cose, ripensi che cosa aveva detto ancora Giovanni Paolo II da Agrigento, poi le cose vanno lentamente, anche perché c'è purtroppo una tradizione di quando queste associazioni erano cominciate, benevole, onorata società, per come dire, per accelerare la giustizia, e poi si sono trasformate, ecco, e forse non ci si è resi conto. Ma cosa tutto. Si è trasformato, scusi, Monsignor Bettazzi? Trasformate nel senso che adesso sono soltanto per i soldi e per la vita, insomma, quando si ammazza della gente, anche ai carcerati di Larino direi, guardate, insomma, scusi, non è che all'inizio le associazioni, la gente, questo non può essere, ho capito, Monsignor Bettazzi, però non è che all'inizio le associazioni mafiose fossero delle associazioni positive, diciamo, di benefattori. Ma pare che almeno in Sicilia onorato la società, perché con la giustizia lontana garantì la giustizia spicciola all'inizio. Scusi, monsignore, tanto però è vero che il cardinale Ruffini ai tempi del concilio diceva che la mafia così era più una storia del resto dell'Italia, ecco. Oggi ci si rende conto, cioè, lei dice la mafia è stata anche una cosa positiva? All'inizio, no? Forse, ma se non mi risulta, però. Cioè, nel senso che la giustizia veniva, dicevano, un agricoltore gli viene rubato l'asino. Sì. Ecco, la giustizia non ci arrivava. Ah, era il mafioso che arrivava, il mafioso. Ma non è bello, però, non è bello. Ma questo qui nasce forse da una gestione civile non abbastanza attenta. Allora la mafia sopperiva a questa gestione civile. Senta, ma dunque lei non prenderebbe nessun provvedimento nei confronti di Monsignor Rustico, di Don Rustico? Sentirei da lui, cioè, uno scappellotto. Una piccola sgridata, un buffetto, cioè, facendolo sapere, ecco, il vescovo ha disapprovato e si è fatto promettere che d'ora in avanti non si faccia più, perché questo non rientra non c'è dubbio che l'inchino non rientra nei doveri di una processione. Io le processioni le cancellerei. Ma dove vive, monsignore, scusami, quindi. A Ivrea, ma io le cancellerei le processioni, o no? Ma io manderei il nostro monsignore, lo manderei in una terra di mafia, francamente, perché mi pare che viva troppo vecchio ormai, 90 anni. Sono orgogliosa dei miei familiari. D'accordo! Sono orgogliosa di chiamarmi Giovanni Mazzagatti. Zanzare di casa mia. La famiglia Mazzagatti, a me mi appassiona il nome, la famiglia Mazzagatti, poi in realtà non ammazzano i gatti, ammazzano le persone, ammazzano le persone. Ma io non ho capito. Allora, titolo, aspetta un attimo, titolo geniale, titolo geniale del giornale di oggi: assalti rom ai treni delle vacanze, emergenza sicurezza, scippi e aggressioni ai turisti in aumento del 20%, ma se il giornale lo denuncia ci accusano di razzismo, ne parleremo. Voglio chiedere subito a Monsignor Bettazzi, siccome oggi è una giornata un po' particolare, Monsignor Bettazzi, in cui la fidanzata del premier Berlusconi si è iscritta all'Arcigay, lei si rende conto, la fidanzata di Berlusconi, la signora Pascale, si è iscritta all'Arcigay insieme a Cecchi Paone, eccetera. Insieme a uno di voi, a un giornalista, no? Insieme a Vittorio Feltri, esatto. Lei approva questo gesto? Le sembra una cosa ipocrita? No, a me mi sembra un po' ipocrita. Perché, dice lei? Perché non credo che loro siano di questi, fra l'altro la fidanzata di Berlusconi non credo che ci tenga a dire che è una omosessuale. Beh, non è che per iscriversi all'Arcigay... No, è un gesto di solidarietà, di vicinanza. Però le sembra una cosa ipocrita, una... No, io non giudico. L'impressione è questo qui, che lo facciano adesso, forse anche per dei motivi di carattere politico, non lo so, se poi lo fanno sinceramente come appoggio contro l'omofobia, tanto di cappello. Senta, ma lei sposerebbe una coppia omosessuale, monsignore? No. Io al massimo potrei dire, preghiamo un po', forse c'è un prete che li benedice, ma sposare no, perché... È una coppia di mafiosi invece? Cioè, se sono due proprio che ci vogliono bene, devo dire, poi quello che fate lo sapete voi, ecco. Ma scusi, signore emerito, ma invece una coppia di una coppia eterosessuale, no? Normale, ma di mafiosi, lei li sposerebbe? Gli darebbe la comunione, una coppia di mafiosi? Se sono notoriamente mafiosi, direi abbiate pazienza, ecco, non si può. Ecco, la scomunica abbiate questo. Cioè è di invitare a capire veramente che cos'è la mafia. Le tradizioni sono di onore, ecco, ma come si fa a proclamare il Vangelo e poi entrare dentro uno in cui se ti comandano ad ammazzare tua madre? Vabbè, quello è chiaro. Senta una cosa, il Papa ha detto che chiede perdono per i preti pedofili che hanno profanato Dio, e va benissimo, naturalmente chiedere perdono è tutto. Sì. Ma un prete che durante la confessione riceve una riceve una notizia, deve andare subito spedito dal giudice, perché questo è il problema? Non deve andare, secondo me. No, la confessione segreta, ecco, deve persuadere il tale a dire, ma lo faccia sapere, perché sennò ci va, c'è qualcuno che paga per questo qui, la vittima. Però se lei sapesse che un suo collega prete, e ce ne saranno pure, no? Ce ne saranno, lei l'ha conosciuti alcuni suoi colleghi o no? Ma uno di cui si dubita. Uno di cui si dubita, cioè, insomma, un suo collega che ha commesso degli atti nei confronti di minorenni, degli atti di pedofilia, lei lo va a denunciare o no? No. Io lo isolerei intanto. Beh, sì, però poi. Perché purtroppo invece noi, quando capitava che uno lo faceva da una parte, tu lo mandavi dall'altra. È d'accordo, lei lo isolerebbe, però non lo denuncerebbe subito all'autorità giudiziaria. Io credo che lo isolerei, mi garantirei che lui non potesse più nuotare. Cioè, è sbagliato andare subito da un giudice? Dovrei pensarci un po'. Per me la prima cosa è garantire che lui non possa più nuocere e venire incontro alla persona ferita, ecco. Ho capito, ma se quello vuole andare... Ma non so perché lo chiami emerito per questo che sta dicendo. Perché emerito? Signor Bettazzi, la pensa come tanti preti che non vogliono andare subito a denunciare all'autorità giudiziaria. No, per carità. Ma lei i preti sposati li ammetterebbe nella chiesa, Monsignor Bettazzi? Ce ne sono anche in Italia dei cattolici, in Calabria, sono di rito orientale, sono a Lungro, metà dei preti sono sposati. Cioè, per evitare anche un sacco di atti che vengono commessi? Sì, ecco, forse quello lì, però è utile anche nelle famiglie questi atti, quindi non è che quello sia automaticamente la risoluzione del problema. Però, darebbe sarei stato favorevole che se ne fosse discusso in concilio. Papa Paolo VI non gradì e non se n'è parlato. Ma pare che anche il nuovo segretario di Stato abbia detto, chi lo sa, un giorno o l'altro può capitare. Ma Papa Francesco, secondo lei, è in pericolo? Com'era in pericolo Kennedy? Nel senso che ci sono dei matti che possono pensare. Vabbè, quei matti ci sono sempre, ma è in pericolo per le riforme che fa? Io credo che il suo pericolo più grande sia il freno che gli viene dato da tutta la struttura, ecco, come rallentano, come frenano. Ecco. Però non è in pericolo di vita? Io penso di no, spero di no. Non vorrei che adesso fossero questi qui dell'Andrangheta che perché qualcuno dice che questo inchino che c'è stato in questo paese, in Calabria, sia il frutto di alcune cose che ha detto sull'Andrangheta, di parole molto dure che ha pronunciato sull'Andrangheta. No, perché questi, l'ha detto anche il sindaco, sono 30 anni che si fa così. No, se ne fottono di quello che dice il Papa, dice lei. Cioè nel senso che sono arrabbiati, tanto è vero che avevo minacciato quelli di Larin carcerati di non andare più a messa. Poi hanno smentito. È vero che queste dichiarazioni a loro turbano, perché se no c'è sempre così chi si barcamena anche nell'ambito nostro. Senta, Monsignor Bettazzi, ma io voglio dire una cosa, i preti, è strano. La questione dei preti sposati, a lei sarà capitato, lei ha 90 anni, ha fatto una grande carriera, Monsignore Emerito di Ivrea, le sarà capitato di avere qualche tentazione? Cioè, la tentazione delle donne esiste sempre, no? Esiste sempre. Lei non è caduto mai in tentazione? Dobbiamo stare attenti, ecco. Ormai andarci a confessare, ecco. Ma lei è caduto mai in tentazione in tutti questi anni? Ma grazie a Dio, insomma, proprio grosso. come tentazione, ma l'importante è non cedere alla tentazione. Non cedere, e lei non ha ceduto. Soprattutto quando sei giovane può capitare di vedere delle belle spalle, no? Certo. Capito, Cruciani. Può capitare di vedere belle donne, è normale che sia così. Ci mancherebbe. Lei però non ha mai ceduto. Ma io ho fatto una scelta, cerco di essere. Ma monsignore, lei non sa che vita dissoluta fa il signor Cruciani, perché se lo sapesse, Beh, dissoluta, ma non è neanche da lontano, caro No, ma non ho bisogno di confessarmi, guardi, non commetto non ho bisogno di confessarmi. Chiedi anche dell'utilizzo di quelle cose di cui No, questo non glielo posso chiedere. No, questo non glielo posso chiedere. Più le cose come dice il Papa, dice "Beh, i peccati siamo frati, ma è la corruzione che non va, perché quello è organizzare la vita tutta incentrata su di sé." Sì, no, certo. La corruzione. Senta, ma è purtroppo un'usanza troppo diffusa a tutti i livelli e un pochino anche nel nostro campo. Senta, ma un bambino che cresce all'interno di una coppia gay, lei lo può ammettere, lo può concepire, monsignor Bettazzi? Io se penso a certi bambini che crescono a quelli che sono cresciuti in certi orfanotrofi, in certi istituti, dico ma forse come un male minore. Certamente rimane un male perché non c'è l'esperienza della integrazione dei sessi. Però ecco. Però meglio a due gay che in un orfanotrofio, dice lei. Sì, che in certi orfanotrofi. In certi orfanotrofi. Senta, chiudiamo con una cosa. Del finire sulle strade come in certi. Sì, certo. Ecco. Senta, secondo lei, siccome c'era l'anniversario qualche giorno fa, Emanuele Orlandi c'entra qualcosa Marcinkus, il Vaticano? Cioè sono impelagati in questa vicenda che si trascina da tanti anni? Mi dica la verità. Non saprei. A me quello che può dispiacere è che non si sia voluto fare totale chiarezza fin da lì. Anche da parte del Vaticano? Così forse adesso non. Ma è morta secondo lei? Sì, è morta chiaramente. Ah, purtroppo penso di sì. È morta, è morta. Purtroppo. Comunque dal Vaticano non c'è stata molta chiarezza, dice lei, monsignor Bettazzi. Ma insomma c'era sempre il timore di dire, insomma, perdiamo come adesso con lo IOR, dice, se facciamo tanta trasparenza poi finiamo di perdere la sovranità. Eh beh, certo. Grazie, a presto. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Oh, quali verità, adesso non esageriamo, insomma, salvare il matrimonio, quali verità vengono fuori qui alla Zanzara, non capisco perché questo stupore, questo scandalo, gli amici di Libera oggi hanno scritto, hanno riassunto quello che è accaduto ieri alla Zanzara, dove il sottoscritto, il conduttore di questa fortunata barra sfortunata trasmissione, di questa tragica trasmissione, chiamasi Zanzara, ha espresso un concetto molto semplice, che fa parte della, come dire, della, se vogliamo anche del sentire comune, caro Parenzo, cioè una donna. Non so, questo non credo, Una donna senza un sex toy, ho detto vibratore ma potrebbe essere qualsiasi sex toy, nella borsetta oppure dentro il cassetto della propria stanza, dentro un armadio, nascosto ovviamente alla vista degli infanti, non è una vera donna, cioè non è una di quelle donne, no? Compiute, fatte, finite. Io c'ho anche perfino il cagnolino. Sì, va bene, però il cagnolino è un'altra cosa. Cioè, il cagnolino è un'altra cosa. È un'altra cosa. C'è sempre qualcuno che va, si spinge oltre nel. Capito? Nelle cose, però. Ma io sono sempre chissà se lo possiede anche la signora, la parente là di Mazzagatti, lì, la figlia del boss. Ma non credo, però, non credo, Guarda, forse ti voglio dire questo: se possedesse questo strumento di piacere, forse. Ma ci vogliamo far ammazzare la 'ndrangheta, scusa, caro amico. Ci vogliamo fare giusto. Giustiziare qui a Monterosa 91 da un comando di calabresi che vengono qui perché abbiamo parlato male della figlia del boss Mazzagatti? Beh, adesso non esageriamo, no? Abbiamo detto che forse non fa utilizzo di questi. Esatto, agenti, perché altrimenti non reagirebbe in modo così scomposto, magari, ecco, di fronte ai giornalisti assedianti in quel di Oppida. Come cazzo si chiama quel paese? Oppido Mamertina, Oppido, non so com'è la pronuncia, Oppido Mamertina, Reggio Calabria, mamma mia! E chi ce l'ha là? Sono orgogliosa dei miei familiari! D'accordo! Sono orgogliosa di chiamarmi domani con Mazzagatti! Allora, Allora, all'inferno potrebbero finirci però quelli dell'Unità, quelli dell'Unità, perché il giornale potrebbe chiudere. Adesso uno potrebbe rispondere, la moltitudine di persone che seguono questa trasmissione potrebbe dire: chi se ne frega, ci sono tante tante aziende in Italia che possono chiudere e certamente non fanno appello, non sperano nell'aiuto del Presidente del Consiglio. Questa è l'anomalia, per carità, poi ognuno fa le battaglie che vuole, lo dico anche con affetto nei confronti dei colleghi, chiamiamoli così, dell'Unità. Però insomma, perché uno dovrebbe essere salvato da un intervento del Presidente del Consiglio? Hanno realizzato un video un video in cui diversi redattori, diversi lavoratori dell'Unità, quotidiano storico della sinistra, non la rileviamo noi, volevo farti questa no, lo vuole rilevare Daniela Santanchè. L'ho visto Daniela Santanchè. Allora lo dico agli amici dell'Unità, io non ho capito, volete l'aiuto dello Stato sostanzialmente, cioè volete l'aiuto dello Stato, non l'hanno detto, sì, dello, no. Beh, come no, chiedono aiuto a Renzi, che vuol dire significa un intervento, perché il David, vogliono l'aiuto dello Stato e del finanziamento pubblico. Loro vogliono che ci sia qualche imprenditore che si faccia quello, ci sia il finanziamento pubblico, abbi pazienza, va bene, vogliono l'aiuto dello Stato, ognuno fa l'appello, ognuno fa la, sì lo so, c'è già, andrà a terminare, esatto, è sempre più ridotto pubblico. Dicono che le cose devono avvenire con una certa, come dire, gradualità. Insomma, invocano l'intervento dello Stato per salvare la cadrega, ma che va benissimo, per carità. Dopodiché realizzano questo video in cui all'inizio c'è una, io dico, ci sono tante tante aziende in Italia che non è che fanno appello al Presidente del Consiglio, alcune lo fanno ovviamente, cioè, però insomma, mi pare addirittura un video in cui c'è una incinta, la prima è una incinta, una grafica. Beh, sono lavoratori come di una incinta, di dai, su, sentiamo. Sono Loredana Toppi, sono l'art director dell'Unità. C'è un appello ai due Mattei che possono fare qualcosa per noi, Matteo Fago che è il nostro editore di riferimento e Matteo Renzi che è segretario del PD, che si parlino, che si cerchi di trovare una soluzione, e io ad agosto avrò una bambina. Voglio dire con affetto, anche lì c'è tanta gente incinta, c'è tanta gente incinta che potrebbe perdere lavoro. Ma va benissimo, è legittimo, per carità, è legittimo. Però io dico basta finanziamento pubblico, basta. Togliamo tutto quello che lo Stato dà all'editoria, togliamolo tutto. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Raid israeliani su Gaza in risposta ai lanci di razzi di Hamas, 14 morti, bambini e donne. Israele richiama 40.000 riservisti. Renzi, piaccia o meno a chi vuole frenare, faremo le riforme. L'Europa si salva con le idee, non con i numeri. Juncker, usare la flessibilità che c'è. Dopo il cambio di strategia di Grillo, vertice PD 5 Stelle, la prossima settimana i democratici hanno risposto alle domande che avevamo posto. Vasco Errani condannato ad un anno nell'appello su terre emerse, si dimette da presidente dell'Emilia Romagna, la segreteria PD gli chiede di tornare sui suoi passi. Il fiume Seveso esonda nella notte, la zona nord di Milano si allaga, polemiche e disagi mentre il maltempo colpisce anche Piemonte, Veneto ed Emilia. Parla al TG3 Roberto Berardi, l'imprenditore detenuto da un anno e mezzo in un carcere della Guinea. Se mi bastonano a sangue ancora, questa volta non ce la faccio. Stasera la prima semifinale mondiale, i padroni di casa contro la Germania, Prandelli in Turchia, non sono scappato ma certe critiche mi hanno fatto male. Nicola da Pescara, Nicola. Ciao, abbiato a fagiolo. A proposito di richieste d'aiuto, io sì, mi ricordo che qualche mese fa Carlo De Benedetti era con le pezze al culo con Sorgenia. Mistero alla Zanzara, come cazzo paga gli spot che state trasmettendo un battage mostruoso? Me lo dite? Evidentemente non è così alle pezze al culo da non poter mandare gli spot. Un attimo solo, Nicola, un attimo. Pronto? Oh, caro Alessandro, sono Cruciani, ciao, come stai? Io bene, sono sono qui in diretta con Francesca Pascale per questo momento storico in cui ha appena ricevuto davanti a una folla in delirio la tessera dell'Arcigay di Gay Lib. Beh, siamo al top, anche una maglietta vedo qui, anche una maglietta, che è successo? L'ha disegnata lei, una maglietta per me e per lei, con scritto siamo tutti sotto lo stesso cielo, perché ha detto che la sua non è un'azione politica, come ma è un'azione no? di umanità profonda per i diritti e la giustizia per tutti. Ma più politico di questo, Alessandro Cecchibone. È un... quello che ha detto Francesca. No, è una grande azione politica. Passacela un attimo. Adesso sta facendo il suo discorso, spero di potertela passare. Intanto ti racconto via via quello che ha detto. Ha detto che si è iscritta alle associazioni, perché si è iscritta anche a Gay Lib, che è quella sì. di centrodestra, sì. Per mettersi a disposizione per essere usata per questa battaglia di civiltà, indifferentemente dalle opzioni politiche. Ma c'è stato anche qualcuno che ha urlato alla Pascale, un transessuale, che ha detto Feltri, sempre lurido verso i trans, un boia ideologico, come la metti con lui? C'è stata una transessuale che si chiama Daniela, molto impegnata, e la quale si è lamentata del trattamento che Feltri ha riservato, avrebbe riservato. Avrebbe, sì. E la Pascale ha risposto in maniera stupenda, ha detto se così è stato mi scuso in questo momento sì. a nome di Vittorio per quello che ha fatto e che sono certo non farà sì. mai più, anzi organizzerò un incontro. Senti un attimo, fra poco faremo anche un annuncio su un'iscrizione all'Arcigay tra qualche giorno, però caro Alessandro, si può dire che oggi Francesca Pascale è il leader di Forza Italia da questo punto di vista, cioè paladina certo dei diritti... però ormai dà la linea, dai Alessandro, su. Francesca è la leader naturale della nuova Forza Italia che ritrova la sua radice profondamente liberale. Beh, siamo al top qui, siamo veramente al top. Passacela un attimo per un saluto veloce. Che succede? Un secondo. Francesca, siamo in diretta sulla Zanzara, ti vogliono fare i complimenti su Cruciani e Parenzo. Eccola, ciao. No, non ci posso credere che parlo con Cruciani. Ciao. Addirittura. Ciao Francesca, come stai? No, ma non ti chiedo nient'altro tranne che una cosa, ci sono state molte critiche da parte di qualcuno, la Santanchè ha detto che è come iscriversi alla FIOM, non bisogna iscriversi alla FIOM per difendere i lavoratori, come vuoi rispondere a queste cose? Ma guarda, la Santanchè è veramente scenica quando parla di politica, ma per l'affetto cui provo per lei posso semplicemente dire una cosa, che nessuno gli ha chiesto di tesserarsi, la mia è stata un'azione volontaria, dettata dal cuore, oltre che dall'ideologia liberale che ho profondamente da quando mi occupo di politica, appunto, la Santanchè non si tesserà se l'Arcigay. Hai fatto bene. Dimmi. Se posso invitare la Santanchè in uno dei raduni Arcigay, perché sarebbe la benvenuta, noi non siamo omofobi. Ma lo sai che secondo me è anche un simbolo gay la Santanchè, cioè le persone diciamo lesbiche, no, diciamo, secondo me la adorano come no, sì, no, sì, no. sì, sì, secondo ma me sì. No. Dai, la adora la Walt Disney che somiglia a Crudelia De Mon, su. Senti una cosa, ma oggi siamo tutti il compagno Parenzo che parla, cara signora Pascale. Da oggi io voglio... Parenzo, lei mi massacra quotidianamente. Comunque no. La ringrazio perché quando mi massacra è anche simpatico. Io allora... voglio dire questo, che da oggi io lo voglio dire questo, siamo tutti Pascale, lo voglio urlare, guarda, sono qui in terrazzo. No, ma su questa mia. Cosa qui devo dire io sono con la Pascale. Cena d'arcore, no, grazie. Ritenete di se voi non ritenetevi Pascale, semplicemente non criticatemi. No, vabbè, questo non c'è. Questo non c'è. Francesca, questo non ce lo puoi togliere, no? Non ce lo puoi togliere. Però sono felice, se non scherzate su questa cosa, sono. Ma noi abbiamo. Ma ti senti un po' da questo punto di vista che hai dato la linea a Forza Italia su questo? Un po' sì. Dai, un po' sì. No, ma magari fosse così, perché se fosse così, dare la linea su tante altre cose che non oserei in questi casi. No, non do la linea a Forza Italia, anche perché chi detta la linea è Silvio Berlusconi e guai chi ce lo toglie. Ed è d'accordo fosse... 100% su questa cosa con te? Beh, certo. 100%, ma non è che è d'accordo con me, sono io d'accordo con lui, francamente. Ma si deve arrivare prima o poi, poi ti lascio, si deve arrivare al matrimonio prima o poi, al matrimonio omosessuale, sì. Con prudenza si arriva dove l'animo umano ed è caduta la linea. Che è successo? A Cecchi Paò, la linea. Ma sono stati comunisti, dai. È la zanzara. zanzara, zanzara, zanzara, zanzara, stronza. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Che gira. Adesso non esageriamo, ragazzi. Poi che cosa vuol dire vorrei? Sì, d'accordo, questo è Agnelli, no, ricordato. No, però, vedi, è più l'educazione. Questi ascoltatori, sì, questi sì, mi piacciono perché sono educatissimi. Cioè, uno che chiama, sì, che, se, non dice subito, ma dice, mi scusi, buonasera, signor conduttore. Buonasera, io vorrei parlare di puttane. Beh, è tutta un'altra cosa rispetto a quelli che inveiscono. Cioè, è una persona educata, va riconosciuto. Cioè, meglio lui di Mauro da Mantova, dici tu. Ma Mauro, vabbè, ma quello è un povero pigmeo del pensiero, analfabeta, imbecille, idiota, che non si capisce. A proposito, ancora, perché hai sospeso l'account dell'esercito di Parenzo? Scusa. Ho detto che convocherò alle 20. Alle? No, David, scusa, dove sei? Che non si sente niente, scusa. Ho detto che convocherò, sì, alle 20:30 di oggi una, sì, conferenza stampa. 20:30 sei alla Zanzara, sì. Cioè, alla Zanzara di Raiz. Allora? No, convoco una, perché non posso convocare una conferenza stampa. Alle 20:30 convoco una conferenza stampa, mi sono già chiamato dalla BBC, dalla CNN, tutti che dicono, ma sì, l'esercito, come mai, e spiegherò le ragioni per le quali ho bloccato per ora l'esercito di questo cosiddetto esercito di Parenzo, che è una roba. Comunque alle 20:30 c'è una conferenza stampa. Va bene, volevo avvisare il popolo della Zanzara che qualche istante fa è intervenuta la fidanzata dell'ex premier Silvio Berlusconi. No, la signora Pascale, chiamala solo. La fidanzata, lei fa piacere. La fidanzata di Mimica, una cosa. Comunque è una persona indipendente dal premier. Ho capito, certo. La quale ha detto che Berlusconi è d'accordo al 100% su questa storia, sì, che piano piano si arriverà al matrimonio, omosessuale. Che Crudelia De Mon, che la Santanchè reputo chiave, quello, è Crudelia De Mon, e che sulle questioni. Vogliamo sentire la Santanchè cosa aveva detto, perché la Santanchè, a proposito della vicenda gay, iscrizione all'arcigay, sì, la linea, sì, di Forza Italia, ha detto: vabbè, ma non è che per difendere gli omosessuali bisogna per forza iscriversi, è come se uno per difendere i lavoratori si deve per forza iscrivere alla FIOM. Insomma, no, Santanchè, Agorà, questa mattina. Oggi pomeriggio Francesca Pascale, la compagna del premier, va a iscriversi all'arcigay. Lei cosa ne pensa? Che ognuno è libero di comportarsi. Che segnale è in questo frangente politico? Ma è un suo segnale personale, una sua scelta individuale, che io voglio dire, io non mi iscriverei all'arcigay, perché come se dovessi iscrivermi alla FIOM o alla CGL per difendere i lavoratori, o come se dovessi iscrivermi alla corrente Magistratura Democratica per una giustizia giusta, quindi voglio dire, io non lo farei. E lei ha detto: nessuno ha chiesto alla Santanchè di iscriversi all'arcigay. Vabbè, eravamo con Nicola da Pescara che mi parlava, non so di che, di, sì, De Benedetti, sì, sì, di, no, Sorgenia. Ne parliamo dopo. Mamma però mia, che noia. Dimmi. No, una cosa importante ti devo dire: hai, dimmi, bisogno di ferie. Ti sei lasciato scappare un'occasione unica. Ma quale? È caduta la linea, amico mio. No, è caduta, ascolta, la linea. No, ti sto dicendo una cosa importante: cosa? Perché non hai chiesto alla fidanzata di Berlusconi se aveva il sex poi in borsetta? Cruciani, sei da ferie. Vabbè, Nicola, sei al delirio. Dai, sei al delirio, sei al delirio, amico mio. Cosa ne pensava? Non lo chiedi a lei, amico mio. A parte che non gliel'avrei chiesto, perché me ne fotto, comunque può darsi che gliel'avrei chiesto, non lo so. Ma in ogni caso, ma non lo so, ma è caduta la linea, imbecille. Dai, l'hai chiesto alle signorine, chiedilo anche a lei se hai le palle. Non l'hai fatto, hai perso un'occasione irripetibile, cruciale. Cioè, non vi accontentate mai, volete sempre qualcosa di più, sempre qualcosa di più. Ma ti pare, ma pretendi, ma certo, magari gliel'avrei chiesto in una conversazione informale, se fosse andata avanti gliel'avrei chiesto, dopo 10 minuti gliel'avrei detto: cara Francesca, ma tu lo porti, ce l'hai un... Oh, Nicola, non mi rompere i coglioni, però abbi pazienza, su, dai. Tu vabbè, torniamo a parlare di Benedetti. Fai una cosa, io vorrei capire come gli sta pagando De Benedetti, che con le pezze al culo, no? Ma non lo so, ma chiedila alla pubblicità, ma che mi interessa, meglio che abbia i soldi per pagare la pubblicità su Radio 24 che in altre cose. Se vuole fare la pubblicità di Sorgenia va benissimo, anche se c'ha le pezze al culo con Sorgenia, anche se la Sorgenia va male, benissimo, fa la pubblicità su Radio 24, magari ne facessi ancora di pubblicità. Ma mi fai parlare un attimo, siccome io ritengo, e te l'ho detto 6 mesi fa, che sei un servo di De Benedetti. Io sono un servo di De Benedetti, ma tu non hai capito proprio una mazza, niente. Perché di lui non parli mai male, parli male di tutti, di lui mai, è intoccabile, te l'ho già detto, ma lasciamo perdere. Vabbè. Fai una cosa, fai mettere online il contratto stipulato da Sorgenia con voi, con tariffe, visto che io mi occupo di pubblicità, ne mastico. Tariffe. Ma io non so quello che fai. No, fallo mettere online da Radio 24. Lo faccio, a parte che sono, scusa, non è il pubblico questo qua, sono, è una radio privata, dunque i contratti pubblicitari non è che possono essere sbandierati così, come pare a te, capito? Per fare per i cazzi tuoi, capito? Per i cazzi tuoi. Come De Benedetti paga la pubblicità su Radio 24? Sono affari privati di Radio 24. Non è un affare pubblico, non è un affare pubblico. Quando ti scaldi ti ho toccato sul punto. Ma hai toccato che? Ma io me ne fotto, me ne fotto di De Benedetti, me ne fotto la pubblicità. Me la regaliamo. Il contratto, mettilo online, non lo voglio vedere domani. Vabbè. Mettilo online. Vabbè, non ti preoccupare, me lo faccio dire, Nicola. Ti rispondo domani. Ti rispondo domani, punto su punto. Non frega un cazzo a nessuno, ma rispondo domani, punto su punto. Va bene. No, interessa a te e alle tue puttanate. Alla gente non interessa, capito? Quando vai in cascetta, si dice in Abruzzo, visto che sei. Ma guarda, non me ne frega niente, sto perdendo solo tempo. Sto solo perdendo tempo. Stai parlando con me e fammela vedere questa cosa online. Ma a me che me ne frega? Ma secondo te, a me che cosa me ne frega di quanto, di come paga De Benedetti la nostra pubblicità? Ma scusa, ma che cosa me ne frega a me? Importante che paghi, no? Importante che paghi, o no? Sei sicuro che paga? E adesso vediamo, controllo se paga. Ma scusa un attimo, ma il contratto sono cazzi nostri, primo. Secondo, Nicola, anche se c'è un cambio merce o cosa del genere, ma che te ne frega a te? Ma che è qualcosa di illegale? Che è illegale? Guarda che nessuno mi ha detto. Vabbè, non li spettavano, secondo le sentenze li spettavano. Ti compra la pubblicità da te. Nicola, a me non ne parli mai male. Guarda, amico mio, non ne parlo mai male, ma io ho una conflittualità con quel gruppo che manco te li mai, ma non sai un cazzo, se uno non sa un cazzo della vita, sta zitto. Non lo dimostri, lo capisci. Senti, quando Nicola, parli, abbi pazienza. Abbiamo attaccato De Benedetti 40.000 volte quando era il caso di attaccarlo, quando pensavo di attaccarlo. Hai attaccato De Benedetti? Voglio sapere una puntata, dimmi qual è. Guarda, se tu dici a me, Giuseppe Cruciani, che io sono un servo di De Benedetti, è la prima cosa. Ma la prima cosa che io do. Metti online il contratto. La prima cosa. Il contratto. Tu pensi che io mi faccio condizionare da un contratto pubblicitario? Cioè, noi abbiamo sputtanato Barilla in tutto il mondo. No. Noi abbiamo sputtanato Barilla. Noi abbiamo sputtanato Barilla in tutto il mondo. E tu pensi che io mi faccio condizionare da un contratto pubblicitario? Tu pensi che io mi faccia condizionare da uno che viene da me e mi dice: no, guarda, di quello non puoi parlare perché c'è un contratto pubblicitario. Io me ne sbatto i coglioni, Cruciani, capito? Voi per 15 anni avete martoriato Berlusconi. Su De Benedetti non io non ho martoriato nessuno. Primo, seconda cosa, Nicola, adesso stai un attimo zitto, parlo io perché altrimenti divento un monologo. No, io te lo dico, stai zitto perché posso dirlo. Ascolta quello che Nicola, dico io. Nicola, tu non hai capito niente, capito? Non sai nulla, non sai nulla, nulla, zero, non sai niente, capito? Se qualcuno mi viene a dire domani non parli di quello perché c'è un contratto pubblicitario con noi, io la prima cosa che faccio è mandarlo a fare in culo. Chiaro? Nicola, permetti che ti dica una cosa, Nicola, dimmi, amico dimmi, mio. Dimmi, se, scusami, non devo aiutare nessuno perché Cruciani ti ha già spiegato. E comunque ormai il Sorgeni è pure delle banche, però. Con grande pacatezza, ma secondo te, visto che pensi di essere una persona intelligente, da un punto di vista dell'immagine ha fatto più male anche al nostro editore e ha rotto di più le scatole la vicenda di Barilla o questa stupidaggine che stai dicendo tu? Cioè io veramente allora la stupidaggine è quella di Barilla, purtroppo che l'avete montata voi una cagata pazzesca che faceva ridere veramente una cosa patetica. E beh, la cosa di Benedetti è diversa. Ti abbraccio fortissimo, ciao Nicola, ciao. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda. Chiaro? Marcella da Roma, buonasera. Ciao Cruciani, è Marcella da Roma. Dimmi. Oh, tra te e Parezzo mi pare dei cani e gatti. Ma chi sei, scusa? Annarella giovane, chi sei? Sì, ma chi sei? Annarella giovane sei. Oh. Senti, io devo parlare della monnezza qui a Roma, che dici? E parla della monnezza, molti si sono incazzati, fra poco abbiamo anche un ospite a parlare della monnezza. Sono pure io, sono incazzata. E come mai sei incazzata anche tu? Perché qui a Casalotti, a Roma, Casalotti, non vengono a scaricare la monnezza che sono 4 giorni. Stiamo peggio di Napoli. E il sindaco, ma che cazzo fa? E io che ne so, rivolgiti al sindaco, non è che chiami la zanzara, amica mia. Perché il sindaco non mi sente. E no, scrivi che sente Marino. Scrivo, ma chi te se frega? Nessuno? Scusa. Ah, non è ce l'hai e te la tieni, te pare giusto? Ma no, quello non mi pare giusto, francamente. Guarda, no. Potremmo fare, cara. Lo so, dimmi. Giusto perché sei... Fammi sentire Marcella. No, mi fai parlare? Fallo parlare. Allora devi fare la differenziata, devi fare una multa. Allora, ma chi cazzo gliela fa la multa? Scusa, Marcella, chi è, dice, a Marino chi la fa la multa? Ah, dica, a Marino è quello, il direttore dell'AMA. Lo so, ma hai ragione, hai ragione. Ma io comunque parlo con te, ma no per te, E per chi? È per farsi sentire. Lo so, ma tu sei incazzato. Fa schifo, non c'è dubbio. Hai visto? Pure Coso, pure Bruno Vespa ha detto, ha scritto a Marino dicendo che è andato a San Pietroburgo, ha trovato una città pulitissima e torna a Roma piena di monnezza. Fighetto, può andare di qua, andare là, alzarsi il culo e andare a vedere per borgate. Ma chi dici? Chi? Chi? Chi è? Marino? Marino, sindaco, sì. Sindaco? Sì, sì. E allora lui diceva tanto dalle mani, qua, là, quell'altro, non fanno un cazzo nessuno. E lui che fa? Invece di andare al Gay Pride, andare a vedere le zone come stiamo collocate. Lui è il sindaco di tutti, non mi pare. Grazie Marcella, grazie. Ciao amica, ciao amica mia. Oh ragazzi, che fatica oggi, oh. Siete avvelenati, siete, oh. Avvelenati, avvelenati. Ormai è tutto degradato. Oh ragazzi, mi date questa questa musica, queste parole di Taormina come suoneria dal cellulare, cioè io voglio che quando mi chiama qualcuno voglio sentire la voce di Taormina che dice è tutto... ormai è tutto degradato. Ma dite che è facile farla così in house, adesso i tecnici me la fanno, va, una bella suoneria del cellulare, mi mandano la cosa, è facile, no? Mi mandano la musica sul cellulare. Anche Borghezio potresti metterti. No, un MP3, mi dicono un MP3, poi fai la metti. Anche Borghezio, perché non ti metti Borghezio su delle chiaie, ad esempio? No, vabbè, quella non si sente una mazza, dai, è meglio questo. Massimiliano Cagliari, poi abbiamo Elisabeth, Trento, Antonio da Roma e altri ancora, 800 24 00 24. Vai Massimiliano, vai. Alla grande ragazzi. Allora, ho visto il busto di Almirante direttamente cavalcato da Dudu. Dai su, non insultare i morti, Massimiliano, dai su. Almirante, solo il busto, niente. Ma dove l'hai visto sto busto? Solo il busto cavalcato sulla 131, ragazzi. Stava sfrecciando direttamente verso la costiera, alla grande. Cioè c'era un busto di un metro, quello di Almirante che è stato rubato, e poi? Un metro e mezzo, mi raccomando, scusa. La signora ci tiene. Un metro e mezzo, cortesi. Dunque bravo, l'hai segnalato in Sardegna, il busto di Almirante si trova in Sardegna. Sulla statale principale, ragazzi. Non faccio il cretino. Capito? Massimiliano. Strano, perché invece a me l'avevano segnalato lì all'Arcigay di Napoli. Strano. Vabbè. Ah, no, guarda, Arcigay non va bene, cioè c'è, ma non va bene. In questo caso non cerchi, come si suol dire, le altre case. Vabbè, vedremo. Ciao Massimiliano, ciao. Grazie. Abbiamo un grande ritorno alla Zanzara. Stavamo parlando giusto di Roma e della monnezza per strada. Una signora che ha chiamato molto molto arrabbiata, ma non ha chiamato dal centro storico, non ha chiamato dai Parioli, non ha chiamato dai quartieri chic, ha chiamato dal quartiere Casalotti. La signora Marcella, incazzata come una bestia per la monnezza che c'è per strada. Si è arrabbiato Bruno Vespa, ma si è arrabbiato anche l'architetto Massimiliano Fuxas. Buonasera. Come andiamo? Ecco. Come andiamo? Va bene, quasi in partenza. Domani vado in Cina, torno in Cina a lavorare. Che fai in Cina? A lavorare in Cina? No, in vacanza. Ma lei non lo mangia il cane? No, non è che va in Cina e mangia il cane, no, per carità. No. No, anche perché ho due cani e non l'ho portato in Cina, sono terrorizzato all'idea. No. Bravo. Ma li tengo lontani. Senta, architetto Fuxas, ma la situazione, che vuole dire a Marino? Datte una mossa con sta immondizia. Ma io non c'ho niente da dirgli, nulla, le cose sembra che sono chiare. Ecco. Cioè? Se un'amministrazione non funziona... Va cambiato il timoniere? Ma io penso di sì, e anche presto. Sì, cioè il PD, in realtà diciamo quello che tutto il PD pensa, che una gran parte del PD pensa, lei non appartiene al PD chiaramente, però no. Lei sa benissimo, perché conosce un sacco di gente a Roma, parla normalmente come tutti, che gran parte del PD romano pensa che Marino sia una sciagura. Diciamo la verità. Quando va fatto questo cambio, secondo te? Il più presto possibile? Ma io non lo conosco, non l'ho mai visto, non so nulla. Perché non l'ha mai voluto incontrare? Da dove viene, ecco, non ho nessuna idea. Perché non l'ha mai voluto incontrare, per esempio, anche sulla vicenda, dopo le frasi che ha detto sulla nuvola, su quella roba dell'Eur, eccetera? Ma lui non lo so, non lo conosco io. Ma non è una persona che ci ho voglia neanche di incontrare, ecco. Ma lo considera un incompetente, lo considera uno che non lo conosco proprio, è una persona di cui non ho mai sentito parlare. Beh, è il sindaco di Roma. Dicono. No, è vero. Per sbaglio, no, forse. L'unica cosa che è veramente insopportabile, sì, che sembra che prima, nei 40 anni precedenti, sia stato tutti siano paragonabili a zero, sì, e sì, tutti aspettavano lui, invece ci sono stati Petroselli, c'è stato assessore al centro storico Agnonino, c'è stato Rutelli che ha fatto un ottimo lavoro, Veltroni, cioè diciamo, non è che proprio non c'è stato nulla prima, no, sì, no. È una però... Anche Carraro lanciò il Parco della Musica, fu un'idea, sì, di Carraro. Cioè Carraro è stato molto meglio di Marino, dice lei. Ma quello, lui lanciò una cosa importante che poi Rutelli, sì, ha avuto la forza di portare avanti, e completato poi alla fine 10 anni dopo, sì, da Veltroni. Cioè lei... Marino che ha fatto? Cosa lascia la città, Marino? Ma cosa lascia? Innanzitutto ancora manco... Cioè, No, per ora cosa lascia? Per ora non si ricorda nulla, dice... Io vedo solo che... ho fatto solo una foto, poi... Sì. L'avete visto? Come no, certo. Ma no, ritornavo perché è la via che porta dall'aeroporto a Roma, sotto casa di Ozpetek, sì, vicino a una famosissima pasticceria dove Ozpetek fa fare tutte le sue torte, che è Andreotti, che è famosissima, al 50, diciamo in prossimità del 50, sì, di via Ostiense, che poi è il centro, questo qui di Roma, sì, è il futuro centro. Beh, ma è il centro. E lì c'era una situazione, io non ho mai visto una cosa del genere, solo ma negli anni peggiori a Napoli. Beh, adesso al di là di Ozpetek, voglio dire. No, ma Ozpetek non c'entra niente, era per localizzare, No, per far capire dove stava, ecco, per dire, non è proprio isolata in un luogo inaccessibile, stiamo proprio nel cuore di una città pulsante che vive. E Marino come ha risposto città a questa foto? Non lo so, io non mi occupo di lui, mi interessa molto più la nostra città, che è la sua e la mia, perché io sono nato a Roma, adoro questa città. Cioè lui non è manco di non Roma. Mi è piaciuta la risposta a Vespa, c'è stata una risposta abbastanza, sì, volgare, dice Vespa, che ha avuto, aveva tutte le ragioni poi per dirlo. Sì. E gli ha risposto in modo arrogante, diciamo sconveniente, un po' arrogante. Vabbè, lo considera un po' arrogante. In Italia, a San Pietroburgo, io ero 10 giorni prima a Mosca, perché stavo facendo un progetto, sì, un museo lì, la città è pulita, funziona bene, però Marino dice sempre non è colpa mia, ci sono stati 40 anni di amministrazioni disgraziate, sì, ma di questi che non è colpa mia ne conosciamo tanti. Io se mi metto a fare una cosa, un mio progetto, me ne prendo tutta la responsabilità. Fare politica è una maggiore responsabilità, è una grande responsabilità che qualcuno, sì, si prende, perciò uno dovrebbe trarne le conseguenze, le conclusioni, specialmente questa storia delle pedonalizzazioni, per la quale io darei, non dico un braccio, però almeno un dito, sì, soltanto che non si fanno così, si preparano i mezzi in, sì, comune, cioè la tranvia a Firenze, poi la Firenze è una città molto, sì, più piccola di Roma. Ma lo possiamo dire, Fuxas, lo possiamo dire che si è rivelato per il momento un incapace, secondo lei, sulla città? Beh, certo, non ne vedo nulla, non vedo neanche le proposte che lancia per farsi un po' conoscere, per farsi un po' di pubblicità. Cioè l'ho visto inseguire Obama, l'ho visto saltare sul carrettino del Papa, però non vedo assolutamente una persona. Ma io penso, se lui era bravo come chirurgo, perché ha abbandonato? Un attimo solo, pubblicità, poi torniamo con Massimiliano Fuxas, molto duro nei confronti del sindaco di Roma Ignazio Marino. Senti, io devo parlare da Monnezza qui a Roma, che dici? E il sindaco, ma che... Signora Marcella, Questa è la Zanzara, invece siamo in collegamento sempre con Roma, ma in partenza per la Cina, con l'architetto Massimiliano Fuxas, molto critico nei confronti dell'amministrazione Marino, e con David Parenzo, che è sempre a Roma però a casa sua. Allora, architetto Fuxas, le voglio subito chiedere, ma il Partito Democratico, per chiudere questo discorso su Marino, non dovrebbe mandarlo, come diciamo noi, la Zanzara a quel paese, il sindaco? Ma come dite voi, credo che il problema è che oggi non si sa chi sono più i genitori, madre e padre di questo sindaco. È vero, è vero. Prima ce n'erano molti, però mi sembra nelle sconfitte non ci sono più genitori, la madre del perdente è morta prima che nascesse, ecco. Ecco, ma il PD non dovrebbe mollarlo, sì. Ma questo è un fatto che riguarda il PD. Lei si augura? Non credo, io mi auguro solo che Roma presto abbia un altro sindaco. Sì, ma non so, qualche altra cosa molto simile a esperienze, a qualche esperienza anche del passato, però non così. Non so, il centro di Roma, Piazza Cheiroli, che sì, è il cuore di Roma, c'è un giardino lì distrutto. Quello che si vede intorno è pauroso, poi c'è l'abbandono completamente della città, cioè non si vedono. Vabbè, prima Roma si libera da questo sindaco, meglio è. Questa è la conclusione. Mi sembra di capire. Penso, no? Penso che potrei essere d'accordo con lei e con Bruno Vespa. Anche se la pensiamo forse differentemente. Ecco, infatti, forse, il tandem Vespa-Fuxas è addirittura un inedito. Si potrebbe dire che Marino mette insieme due che proprio non è che sono uguali, no? No, non siamo uguali, però io ho sempre avuto rispetto per gli avversari politici, però Vespa è una persona intelligente, ecco, cioè, tutti i difetti del mondo, poi questo sarà un altro capitolo, però al momento attuale credo che sia molto utile che tutti quanti cominciano a portare. Ma scusi, che c'è? Parenzo, no, che dico, c'è? Ma Fuxas magari di Marino piace forse questa idea romantica di girare la città con la bicicletta, forse almeno questo gli vuole, anche questo. Ma è una puttana. Io vado a piedi, perché girare per la bicicletta in una città come Roma, a parte che è pericolosissimo. Molto pericoloso, è vero. Poi respiri peggio di quello che respiri andando a piedi. Ecco, io vado a piedi, cammino a piedi, è facilissimo incontrarmi. Ma poi diciamo la verità, architetto, tutta sta storia di Marino che va in bicicletta è tutta una cosa assurda, dai, su. Ma io non ho capito da dove proviene, perché da Genova, no? È nato a Genova. Ma sì, però mi dicono, io vengo anche dalla Sicilia, sono stato qualche giorno in Sicilia, ma mi dicono che è di Ascitrezza, originario della Sicilia. Però non ama quella terra, credo, perché dice di Genova. No, ma è originario della Sicilia, poi forse credo che sia nato a Genova, non mi ricordo, ha studiato in America, cioè non ha avuto a che fare molto con Roma, ma sai, è un'invenzione. Ma lui è un bravo chirurgo che lo facesse, io conosco molti bravissimi, Veronese, un mio amico da sempre, Galluzzi, che è uno straordinario. Perché uno deve smettere di fare il chirurgo, dice lei? Allora la prima cosa che dicono, ma non lo farei mai, ecco. Dato che la mattina alle 6 si alzano, alle 7 già sono in sala operatoria, fino alle 10, il sabato e la domenica lo passo a visitare, a vedere quello che succede, cioè una passione bellissima, come un architetto, se si mette a fare l'architetto. Certo, Marino potrebbe tornare tranquillamente a fare il... Beh, se era bravo, sì. Senta, io le voglio chiedere una cosa su Renzi, ma davvero pensa, come una parte della sinistra, in realtà minoritaria, che ci sia un pericolo addirittura di dittatura per... No. Tutte a puttanate. Renzi può essere simpaticissimo, antipaticissimo, prima di tutti perché è toscano, perché c'ha un modo di parlare, di esprimersi, però non esageriamo. Ma io vedo Renzi non come molti un pericolo, lo vedo come qualche cosa che è naturale, perché quando uno vede giovani architetti che hanno 30 anni non può dire che sono un pericolo per l'architettura, vede che sono un'opportunità. Se vede dei politici che a 30 anni cercano di fare qualche cosa, si aspetta, ecco, poi dopo si vedrà, c'è sempre tempo per sbagliare. Ma non è troppo chiacchiere distintivo, però, cioè non è un po' troppo... Il governo da pochi mesi c'ha un carattere che è toscano, tosca-fiorentino, periferia fiorentina possiamo dire, rispetto a tutti i fiorentini, però è una persona che credo che qualche idea ce l'ha, però mi sembra presto per bisogna dire. Vedere, sa, qui fra 6 mesi si vede che è successo, non è che bisogna aspettare anni. Senta, a proposito di architetti però, sì. Le voglio chiedere una cosa su Renzo Piano, perché è suo amico, però io mi sono abbastanza arrabbiato con questa cosa del senatore a vita, diciamo la verità, perché se uno poi non va alle votazioni e c'è un'assenza molto alta, dice che ha fatto un atelier lì al Senato, sì, per sì, ho capito dove vuole arrivare, guardi, lui ha fatto l'errore della storia, lui non ha mai sbagliato, è un uomo, è un classico genovese, attento, sì. Di ottima famiglia, così, ha fatto un errore colossale, quella di accettare questa cosa di essere senatore a vita. Bravo, bravo Fuxas. Si è messo in proprio nella bocca delle ore, diciamo, ecco, anch'io gli ho detto, dice, guarda, non hai mai sbagliato, sei stato sempre attentissimo, sì. Hai frequentato sempre per le persone giuste, hai sempre avuto una vita come si deve, ma adesso che è questa storia, ecco. Però è così, poi non ma pure sta storia che dice che dà in beneficenza ai giovani architetti. Poi io mi sono divertito molto perché gli ho fatto pure qualche battuta, gli ho detto, cioè? Ma tu in periferia ci vai con la barca o ci vai a piedi, cioè qualche battuta, ma questa, da amici, noi siamo veramente molto amici, però lui ha una decina d'anni più di me, sì, lui ha sì. 10 anni più di me. C'è in questo momento un nostro che c'è un nostro ascoltatore in questo momento, si chiama Diego Auletta, sì. Che dice, non so, chiedete a Fuxas, non so cosa sia più disgustoso, se vedere la nuvola di Fuxas o la spazzatura di Napoli, questo ascoltatore. Vabbè, quella nostro... nuvola manca è finita, come fa a dire disgustoso? No, ci va, lui andrà a fare i convegni, i congressi là, non lo so, non mi sembra un progetto mai riuscito, adesso forse se tutto andrà bene finirà, io non ne so nulla di quello che stanno combinando, anzi la vogliono pure far fuori, pare, ma hanno fatto fuori, però sicuramente non ci vado ma lo mai, vogliamo dire alla fine la bellezza dell'architettura lo sa qual è, che qual tra è? Metà della gente che ama le cose e metà che non le ama, è vero, come a Milano a Piazzale Cadorna la cosa della stazione, no? Sempre, ma anche lei è amato dalla metà degli italiani, io faccio parte di quelli che non voglio dirlo, vabbè, che mi piace, però, e l'altra parte che mi odia, ama, sì, è vero, cioè, sì, se sì. Una persona prende delle posizioni, esatto, bravo, nel momento in cui esce dalla strada, io sono io ho ingaggiato una cosa di Piano, la dico anche grossa, io ho detto addirittura mi odiano profondamente quando dico è meglio Razzi di Piano, la dico grossa, cioè, ma lo sa perché lo dico? Perché Antonio Razzi fa parte del circo della politica italiana, però sì. Almeno è passato attraverso un'elezione addirittura con le preferenze, poi è stato nominato, è vero, però comunque si è presentato alle elezioni e fa il senatore. Che bisogno c'era di diventare senatore a vita per Renzo Piano? Perché bisogno abbiamo di dare in beneficenza il suo stipendio ai giovani architetti? I giovani architetti se la cavano da soli, non è che hanno bisogno di fare l'atelier al senato di Renzo Piano, diciamo la verità, Fuxas. Sì, no, ma guardi, io penso una cosa sia fondamentale, quella che il Senato andava eliminato, perché ecco. Cioè non andava trasformato in una specie di Camera dei Lord, perché in Inghilterra c'è una tradizione, andava eliminato, e perciò non c'era più nel discorso delle elezioni, elettivo, non elettivo, andava eliminato perché è una doppia Camera, se poi volevano fare la Camera delle persone. Sì. Ma perché ha accettato il suo amico Piano? Gliel'ha detto perché ha accettato? Io gli ho detto soltanto che ha fatto un errore, però bisognerebbe chiedergli. Cioè lei lo farebbe in ufficio là al Senato, l'atelier per i giovani architetti, lo dica chiaramente. Ma non è in ufficio al Senato, poi non è. Come no? Dice che ha fatto. No. Come no? Lo dice lui, ha fatto vedere pure le foto, ha trasformato il suo ufficio al Senato in una sorta no, di. Sì, ho capito, nella casa che hanno di funzione. Perché il senatore a vita gode di una cosa straordinaria, che è un appartamento, credo andrebbero aboliti senatore. Ma secondo me andrebbe abolito il Senato, ecco, per avere sì. Che è una cosa a cui tutti pensano, come le province andrebbero abolite, non, soltanto che le province non sono state ancora abolite. Il Senato no. Pare che il non Senato si sa pare bene. Che si fa finta di abolirlo, però non io sono stranamente stasera d'accordo con Fuxas, cioè no, sì, stranamente, vabbè, però io anche con lei devo dire, anche succede. Con Vespa, anche con Vespa. Senta, ma imporre il crocefisso sì. Come vuole fare il sindaco di Padova Bitonci? No. Imporre il crocefisso no, come sì, obbligatorio? Cioè io dico, se uno ci crede, se una comunità ci crede, cioè se lo ficcasse nell'aula, in classe, però ci sa gente che non ci crede, poi ormai, guardi, ci sono 6 milioni di extracomunitari in Italia. Che lei è una cosa positiva secondo lei? È una cosa positiva, è un dato di fatto perché quando un popolo è stanco e non vuole più fare alcuni lavori, la Francia ne ha 7, la Germania ha 6 milioni di turchi più gli altri, cioè se noi europei siamo stanchi, lo capisco, di fare lavori che non ci piacciono, questo dobbiamo prendere sempre più extracomunitari. Cioè, secondo lei, questi barconi che arrivano non andrebbero fermati e le persone riportate nei loro paesi, oppure li dobbiamo accogliere? Ma non c'hanno, questi paesi non esistono più, cioè la distruzione, esatto. Guardi, la distruzione che è avvenuta da Belgrado, cioè se si ricorda la guerra della Jugoslavia, è stata una delle prime cause della destabilizzazione dell'Europa. La seconda grande destabilizzazione è stata la questione di Beirut, che è stato enorme, e poi adesso poi c'è stato Tripoli, poi c'è stato l'Algeria, e poi c'è stato... Ma non è che possiamo sopportare tutte le distruzioni del mondo noi. L'Ira, però questo è un fatto che sono i nostri vicini, e noi non possiamo... Sai, e la Lega allora? E la Lega allora che fa tutta la sua campagna? Non lo so, la Lega... Le fa schifo a lei? Le fa schifo a lei la Lega? Sta cambiando pure la Lega, credo che tutti sono cambiati, il partito politico come istituzione, partito politico è cambiata, non c'è più, si stanno trasformando in movimenti di opinione, e però dobbiamo parlare io e lei annoiando e ammorbando. Sì, no, meno male, no, assolutamente, no, per carità. Senta, mi può dire una cosa, una verità, alla fine lei da tutto questo progetto della Nuvola quanti soldi mette in tasca? Beh, guardi, la prima cosa da fare, guardi, ho messo in tasca, perché ha messo già. Cioè, diciamo, sono 7 anni che è iniziato il cantiere, 7 anni. Il cantiere doveva durarne 3, già ne dura 7, ne durerà 8. Perciò questa è una cosa che la vigilanza, i prodi della vigilanza si sono svegliati qualche anno dopo. La cosa reale è che questi progetti non si fanno da soli, si fanno con ingegneri, con altri, i quali percepiscono il 55% del 100%. Vabbè, alla fine? Alla fine credo che ci abbiamo rimesso, alla fine, devo dire. Ah, lei ci ha rimesso? Eh beh sì, perché sono passati 16 anni. Cioè, lei dice, avrei potuto fare tante altre cose, dice, no? Lei è, credo, di intelligenza superiore, perché io sono stato preso nella trappola di Roma perché volevo assolutamente fare qualche cosa nella mia città. Mai più, dice, mai più, mai più. Non succederà mai più, questo mi pare chiaro, perché stando dietro a questo progetto, io avevo lo studio e vivevo a Parigi, adesso ho lo studio ma non vivo a Parigi, però l'idea è sempre quella. Alla fine ci ho rimesso quanti? Ci ha rimesso un sacco di soldi. Ma certo, ma anche perché si pagano le tasse, cioè l'IVA si paga, le tasse si pagano. Lei aveva detto 5 milioni, però poi se uno calcola il tempo perso, eccetera, eccetera, alla fine ci ha rimesso. 16 anni, no, il tempo, 16 anni. 16 anni. Senta, ma perché Crozza lo chiama, architetto Fuffas? Ma io con Crozza non lo chiamo, ad esempio, vede, non so, Crozza, lui fa il suo mestiere. Lo fa certe volte bene, ma non si è offeso. Ma mi sembra un po' offeso, però. No, mai stato offeso di Crozza, mai. Lo vedo, lui fa parte del clan dei comici genovesi. Sì. Grillo, Crozza, quello che sta, Mediaset, non mi ricordo come si chiama. Ricci. Poi c'è Fazio, poi c'è tanti. Ha prodotto moltissimi comici. E dunque? La Liguria. Beh, questo è un dato di fatto. Però è strano questo, è la Liguria che nessuno avrebbe sopportato, supposto che fosse il luogo di produzione. Finalmente. Però lei un po' questa roba qui la disturba, un po' di essere chiamato Fuffas da Crozza. No, ma io neanche lo sento, no, c'ho altre cose, guardi. Attualmente il mio problema è semplicemente uno, che a Mosca facciamo il museo e lo dobbiamo finire presto, il museo del Politecnico. Ah, va a lavorare con Putin, va a lavorare per Putin. Ma Putin già ci sto lavorando perché ho vinto il concorso contro molti stranieri. L'altra cosa è non è uno scandalo lavorare con Putin, no? Non è uno scandalo lavorare a Mosca. Ma non mi sembra, perché non l'ho mai incontrato. Se la prossima volta, quando mi capirà di incontrarlo, analizzerò il problema. Ma lì si costruiscono musei come si costruiscono in tutto il mondo. Forse in maniera più veloce e più rapida rispetto all'Italia, diciamo la verità. E poi a Pechino. Senta una cosa, un'ultima cosa, mi chiedono qua perché mi tempestano. Poi a Los Angeles stiamo facendo un progetto, ecco, perciò io vivo. Dove? Purtroppo. Dove sta facendo il progetto? A Los Angeles. Ah, lo senta, però io una cosa, perché mi chiedono, chiedi se questo l'avvocato Cicconi, che è una bravissima persona, mi mio amico, mi chieda chiedi se ritira Quarella Sgarbi. Ma che gli devo dire chiedi se ritira Quarella? Che c'è con Sgarbi? Ma che ne so, che c'è in ballo qualcosa? Che ha detto Sgarbi? Che lei è un buffone? No, ma lui è stato rinviato a giudizio e ha detto che si inchinerebbe, basta che non cacci i soldi, sarebbe pronto anche a inchinarsi davanti a me e chiedermi scusa lei... per gli insulti che mi ha fatto. Che gli ha detto? Che gli ha detto? E gli ho detto no, tu devi pagare, gli ho detto, no, lui deve pagare i soldi, deve cacciare, perché la cosa che gli fa male a Sgarbi sono i soldi, il resto non gli frega nulla. Grazie, quanti soldi gli ha chiesto a Sgarbi, l'architetto Vuksas? Ma non credo, non l'ho ancora chiesto, non l'ho, adesso vorrei, credo che ci sia una causa. Ma che ha detto da Sgarbi? Ma che come ha detto? Fa a sapere questo avvocato, questa bravissima ma persona? Ma perché è l'avvocato di Sgarbi? E mi ha mandato un messaggio, chiedi se ritira la querela Sgarbi. Beh, no. Ha sentito, avvocato, non ci pensa nemmeno. Beh, dovrebbe mandare una lettera implorante e poi forse neanche, guarda. Grazie, a presto. Arrivederci. A presto. Pronto. Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. Sono incerto se scegliere questa come suoneria oppure. Una botta a polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio. Allora, la sobria reazione di Paolo Barnard, dell'amico Paolo Barnard, all'arrivo di Floris alla 7. Senti, leggi, Paolo Barnard. Floris alla 7. Era ieri da noi, Barnard. Aspetta, sì, era ieri da noi, però oggi ha scritto un'altra cosa. Floris alla 7. Così Urbano Cairo fa fuori la gabbia. A parte chi gliel'ha detto, comunque. Insomma. Barnard di solito spara sempre queste cose. Almeno i camorristi hanno le palle di spararti in faccia senza ste manovre da eunuchi. Cioè, ha dato al signor Urbano Cairo, che peraltro lo paga indirettamente, per le sue presenze, certo, alla gabbia. Direttamente. Perché indirettamente? No, indirettamente, perché comunque sì, la produzione, quella produzione. Beh, lì, comunque sì, è vero, i soldi sono sempre del signor Urbano Cairo, sì, lo certo. Paga. Allora, peggio del camorrista è eunuco, sì. Eunuco è peggio di un camorrista. Questo è il signor Barnard. Credo che il signor Barnard non sarà presente alla prima puntata del nuovo Ballarò. Sono quasi certo. No, gabbia, non Ballarò, gabbia. No, ma neanche di Ballarò. Beh, ma quello neppure mi sembrava di escluderlo in partenza. Ballarò. Anche se mi hanno detto che ancora pare che Floris non ha firmato, Vabbè, ma chi se ne sai che ti dico, ma chi se ne fotte? Ma chi se ne fotte? Chi se ne fotte? Anche questo è vero. Anche questo è vero. Pronto? Sì. E il conduttore? Sì. Questo non c'è dubbio. Luca da Brescia. Buonasera. Dimmi. Sono il generale dimissionario dell'esercito di Parenzo. Sì. Per la questione gravissima che il nostro ex capo ha fatto su Twitter, uno sgarbo. Parenzo, perché hai cancellato? Perché hai bloccato? Alle 20:30 conferenza stampa a parte che non credo che ci siano migliaia e milioni di persone interessate. Ho convocato una conferenza stampa per le 20:30, non prima. Generale dell'esercito di Parenzo, mi dispiace comunicarle che poi Parenzo ha deciso di parlare solamente alle 20:30. Alle 20:30 il punto. Alle 20:30 vuole comunicare non questa cosa. Non prima delle 20:30, perché si collegano anche da Mosca, perché c'è fusi orari diversi anche dal Brasile, e quindi alle 20:30 ho detto questo, ho convocato alle 20:30 una conferenza stampa, fine. Non siamo stati convocati neanche quella, perché ormai ci ha epurato, quindi non possiamo più parlare. Ma no, l'epurazione, aspetta, io posso spingermi a dire, se Parenzo non ristabilisce l'account Twitter dell'esercito di Parenzo, sono pronto a prendere provvedimenti drastici. Mi sembra una follia, perché si vergogna, forse siccome si vergogna del suo mondo fatato, si vergogna del suo mondo fatto di snobberia, del suo mondo fatto di persone altolocate, della Roma bene, della comunità ebraica e cose di questo tipo, si vergogna di questo mondo, cioè pensa che l'esercito di Parenzo gli procuri danno e allora ha bloccato. Ma tanto non serve a niente, perché l'esercito di Parenzo non è che se lo blocchi tu non scrive poi, cioè, ma poi scusi, ma che colpa avremmo commesso? Ma non l'ho capito, comunque alle 20:30 spiegherà. Luca, cosa vuole che le dica? Elisabeth da Trento, su dai Elisabeth. C'è una conferenza stampa convocata, prima io non parlo, mi vabbè, Elisabeth da Trento, dai. Ullala ragazzi, buonasera. Amica mia, che vuoi dire? Ecco, dico che ieri mi sono persa la puntata per mancanza di batteria. Però, sì, oggi ho sentito che parlavano del vibratore. Di vibratore, allora sì, la questione è molto semplice, cara Elisabeth. Ieri ho detto che in sostanza una donna non è una vera donna, una donna non ha lo spirito femminile, non ha la giusta femminilità, la carica sessuale, se non possiede un sex toy, poi io ho detto vibratore, e non ce l'ha o in borsetta oppure nel comodino. Nel comodino. Io non ce l'ho in borsetta, ma ce l'ho nel comodino. Beh, siamo perché? Top. Quanti anni ha lei? Nel comodino 32. 32, molto bene, molto bene. Perché per mancanza, io avevo un ragazzo, napoletano, tutto fogoso. Scusi, lei di che è originaria di dove? Di Cuba, beh, siamo veramente al classico, diciamo, al super classico degli stereotipi, insomma, no? Una cubana. Caliente. Sì, caliente. Allora? Allora, purtroppo è finita il rapporto, allora meno male che non avevo perso le vista il mio vibra, e allora mi sto arrangiando da maggio, che mi arrangio io da sola, perché... Capito, Parenzo? Voglio fare un appello per i ragazzi, guarda, questo evita il tradimento... Sì, in che senso evita il tradimento? Scusi, adesso... Ma certo, se tu hai un uomo, per esempio, al lavoro o in viaggio o qualcosa, tu ti devi arrangiare con tuo amico vibra. Col tuo amico vibra. Vabbè, Elisabeth, però... Io ho anche persino il cagnolino. Sì, vabbè, il cagnolino è un'altra cosa. Cagnolino è un altro discorso, cara Elisabeth. Comunque, lei dice, quando non c'è l'uomo, io uso il vibratore. Vabbè, questo il però... vibratore, adesso sono single da maggio. Ma si può usare, scusi, cara Elisabeth. Sì, però, vita. Cara Elisabeth, si può usare... Lei ne dà, capisci, ti ha spiazzato questa telefonata. Perché? Ma guarda che non volevo parlare con Parenzo, che le ho letto le carte a Parenzo. Ha letto le carte a Parenzo. Una telefonata di un uomo potente. Non ho capito. La richiesta di lavoro. Riceverà la telefonata. Come ha fatto a leggere le carte a Parenzo? Ma quando mai, però? Parenzo, se deve mettere il nome e cognome. Chi se legge le carte? Lei ha letto le carte a Parenzo. Cosa è venuto fuori? No, ci dica tutto. Cosa è venuto fuori da questa cosa? No. Lui riceverà la chiamata del Papa. No, adesso il Papa. Lei ha detto uno potente e poi... Lo vuole a fianco, perché il buonismo di Parenzo deve essere in un altro posto, non proprio lì. Allora lui deve decidere se andare lì al Vaticano o rimanere lì a San Sara. Vabbè, comunque Elisabeth, la ringraziamo per questo racconto in cui lei ha detto io sono single, però le dico subito che il... Ti ha spiazzato perché lei ti ha spiegato che il suo, quello che lei chiama amichevolmente il mio vibra, no? Sì. Con un vezzeggiativo quasi, sì. No? Dice, ti ha spiazzato perché mentre tu sei appunto il teorico dell'amore plurimo, delle corna, delle cose eccetera, lei ti ha detto che invece lo consiglia perché quando l'uomo non c'è, dice anziché... No, ma io lo consiglio in ogni caso anche in presenza di un uomo, di un fidanzato. Ma l'ha detto in chiave positiva, in chiave di unità della coppia, mentre ti ha spiazzato questa roba, che invece tu sei, come dire, più per la molteplicità degli affetti, no? Ma che c'entra questo? Mamma mia, fai confusione. Va bene, grazie Elisabeth. Antonio da Roma, Antonio. Sì, buonasera, brevemente vorrei un chiarimento proprio tecnico. Sì. Sono entrato in un sexy shop e c'è una quantità enorme di oggetti, non solo vibratori. Ma lei è entrato in un sexy shop grazie a noi, grazie al nostro... No, 20-30 anni fa, già c'era una quantità enorme, adesso sarà ancora più. Ma il punto è un altro, ho sentito ieri parlare di cane da lecco e non capisco se è come un pupazzo di peluche, che ha un meccanismo automatico per leccare, oppure un cane vero e proprio addestrato a leccare, cioè come funziona concretamente questo cane da lecco? Guardi, non vorrei spingermi su un territorio, come dire, un po' impervio e complicato, caro Antonio. Esistono diverse cose, diciamo, i cani veri, quelli finti, eccetera. La signora che ci ha chiamato ieri dovrebbe spiegare, lei dice io ho anche il cane da lecco. Non ho idea, si può anche immaginare, non bisogna sempre rispondere in maniera cruda, bisogna sempre raffigurare tutto in maniera chiara, evidente. Si può anche solo immaginare quello che accade, no? Quale tipo di sex toy, di quale tipo di sex toy si tratti, o no? Può essere bellissimo che una signora abbia delle fusioni con il suo cane Può essere, può essere tutto. Leccare, ma attenzione che cose. Qui entriamo nel in un campo minato, in un campo minato si potrebbero rivoltare. Ma come la gente si scandalizza per la vivisezione e allora su questo aspetto non si sa niente, non si dice niente. Antonio, non lo so, non è che possiamo fare adesso una trasmissione sul cane da Lecco. Lei si rende conto che ci siamo spinti già oltre una trasmissione intera sul cane da Lecco? Adesso, francamente, siamo sempre al top, lo so, però dobbiamo anche insomma un po' frenarci ogni tanto. Non è che io posso impostare tutta la trasmissione. Ha chiamato una signora e mi ha detto che usa il cane da Lecco. Anche perfino il cagnolino. Ecco, il cagnolino, perché esatto. Si chiamano i cagnolini da Lecca. Ecco, dava l'impressione la signora di parlare di un cane vero e proprio, hai capito? Sì, tante donne sole hanno il cane che sembra che sia una cosa Lo so. Non se ne possa fare a meno. Beh, adesso non esageriamo, insomma, ne conosco tante che sono da sole e non hanno un cagnolino con cui no, fare quello che lei immagina. Va bene. Ulala, ragazzi, buonasera. Tu hai un uomo, io uomo per esempio al lavoro o in viaggio o qualcosa e tu ti devi arrangiare con tuo amico Pitra. Allora ragazzi, alle 7:25 di oggi è intervenuta la Zanzara, la fidanzata dell'ex premier Berlusconi, proprio all'uscita dal circolo Arcigay di Napoli, dove si è iscritta ufficialmente alla più grande associazione omosessuale italiana ed è diventata, questo è un nostro giudizio ovviamente, Parenzo, no? È diventata diciamo la leader della corrente liberale di Forza Italia, insomma, per i diritti civili. Ha dato la linea, è intervenuta la Pascale, ci è stata passata dal signor Cecchi Paone, che qualcuno dice Cecchi Pavone, qualcuno chiama così perché insomma no, per le sue note tendenze omosex, direbbe qualcuno, le tendenze omosessuali, ti ricordi la velina del... Toglierei tendenze, mi pare che sia abbastanza acclarato, ecco. Assolutamente. Non è solo una tendenza, diciamo. Ne è uscita questa conversazione. No, non ci posso credere che parlo con Cruciani. Ciao Francesca, come stai? No, ma non ti chiedo nient'altro tranne che una cosa, ci sono state molte critiche da parte di qualcuno, la Santanchè ha detto che è come iscriversi alla FIOM, non bisogna iscriversi alla FIOM per difendere i lavoratori, come vuoi rispondere a queste cose? Ma guarda, la Santanchè è veramente scenica quando parla di politica, ma per l'affetto cui provo per lei posso semplicemente dire una cosa, che nessuno gli ha chiesto di tesserarsi, la mia è stata un'azione volontaria dettata dal cuore, oltre che dall'ideologia liberale che ho profondamente da quando brava. Mi occupo di politica, appunto. La Santanchè non si tesserasse all'OCK, hai fatto anche se posso invitare la Santanchè in uno dei raduni Arcigay, perché sarebbe la benvenuta, noi non siamo omofobi. Ma lo sai che secondo me è anche un simbolo gay la Santanchè, cioè le persone diciamo lesbiche, no, diciamo, secondo me la adorano come secondo me sì. No, dai, la adora la Walt Disney, che somiglia a Crudelia De Mon. Senti una cosa, ma oggi siamo tutti il compagno Parenzo che parla, cara signora Pascale. Da oggi io compagno Parenzo, lei mi massacra quotidianamente. Comunque la ringrazio, perché quando mi massacra è anche simpatico. Io allora voglio dire questo, che da oggi io lo voglio dire questo, siamo tutti Pascale, lo voglio urlare, guarda, sono qui in terrazzo. No, ma su questa cosa qui devo dire io sono con la Pascale. Cena d'Arcore, no, grazie. Ritenetevi, se voi non ritenetevi Pascale, semplicemente non criticatevi. No, vabbè, questo non ce lo puoi togliere, no? Non ce lo puoi togliere. Però sono felice, se non scherzate su questa cosa, sono... Ma noi abbiamo... Ma ti senti un po' da questo punto di vista che hai dato la linea a Forza Italia su questo? Un po' un po' sì. No, ma magari fosse così, perché se fosse così dare la linea su tante altre cose che non lo sarei. No, non do la linea a Forza Italia, anche perché chi detta la linea è Silvio Berlusconi e guai chi ce lo toglie. Ed è d'accordo 100% su questa cosa con te? Beh, certo. 100%, ma non è che è d'accordo con me, sono io d'accordo con lui, francamente. Ma si deve arrivare prima o poi ti lascio, si deve arrivare al matrimonio prima o poi, al matrimonio omosessuale, sì. Con prudenza si arriva dove l'animo umane, l'animo umano ed è caduta la linea. Che è successo? Beh, ragazzi, è caduta la linea. Che dobbiamo fare? Chissà cosa avrebbe detto di altro, eh? Alessio da Lucca, Alessio? Vabbè, Alessio da Trieste, ce ne sono due, ma avete preso quello sbagliato sicuro? Ah. Dai, Alessio Trieste, dai. Ok, niente, io volevo semplicemente testimoniare quello che mi è successo sabato in treno, sì. Che due gruppi di Rom diversi, in due momenti diversi, sì. Nell'arco di 10 minuti, stavano truffando dei turisti. Prima un gruppo di ragazzi spagnoli, sono intervenuto, sì. In pratica loro vestiti da persone delle ferrovie dello Stato. Scusi, posso chiedere una cosa? Lei è frocio? Perché? No, così ha una voce un po' effeminata. Non c'entra la voce. No, ma lo so, mi sembra. No, ma una... È di Trieste. Come no, ha una. Ma mica glielo dico in senso negativo, lo sa come la penso su questo. Ma è curiosa la cosa, ha una voce un po' così, molto, molto femminile, ma è una bellissima voce. Ah, no? Ok, grazie per il complimento. E insomma. Ma alla fine ha risposto, sì o no? Riguardo alla domanda. Alla sua omosessualità. Preferisco non rispondere. Vabbè, ma che vuol dire? Ma mica siamo all'Inquisizione qui. Viva i Franci! Sempre! Vabbè, Alessio, allora non vuole rispondere, vabbè. No, volevo continuare invece sul discorso iniziale, che sono vestiti da personale delle ferrovie dello Stato, tranne che con la F, sì. Sostengono di avere loro il posto dove sono seduti i turisti e pretendono soldi, ma in maniera anche pesante. Ma questo dove? In che stazione? Che lo segnaliamo subito Roma, alla polizia? Roma Termini. Io ho già chiamato i carabinieri, sono andato a cercare il capotreno. Sì. Il capotreno in maniera abbastanza tranquilla mi ha detto siamo all'occorrente di questo, ma non ha fatto nulla. Siamo al corrente, sì. Beh, cosa vuol dire? Perché non si può fare nulla, purtroppo, non si può fare nulla. Secondo me sì. Dopo ho chiamato i carabinieri, sì. stava per partirmi il treno, da lì a 5 minuti, i carabinieri al telefono mi hanno detto se cortesemente potrebbe andare ad avvisare i carabinieri alla stazione, ho detto guarda mi sta per partire il treno, potete fare voi la segnalazione. Ma sarebbe meglio se lo facesse lei. Vabbè, ho capito, ma è lei che deve fare la segnalazione, giustamente. Sì, io l'ho fatta telefonicamente. Ho bloccato per due volte la stessa cosa. Ma che è successo concretamente? Questi si mettono una divisa addosso? Che si mettono? Si mettono una specie di divisa addosso, sì. Tranne ovviamente non hanno il simbolo delle ferrovie dello Stato. Entrano nei treni, sì. Quando vedono dei turisti che sono seduti, vanno da loro e dicono: guardate, ho io quel posto, mi dovete dare dei soldi per stare lì. E i turisti, ma anche sbigottiti. In alcuni casi danno subito i soldi per non avere problemi, in altri, nel secondo caso che ho visto, in cui sono intervenuto, la turista, penso tedesca, ha iniziato anche ad arrabbiarsi in maniera concitata. Ho capito. E questo Rom continuava. Ma non volevano portare i bagagli, no? In questo caso cosa volevano fare? No, loro volevano soldi, dicendo che il posto dove stavano i turisti era il loro. Ma se ne inventano di tutti i colori. Comunque, una lettera firmata oggi sul giornale, caro Parenzo, egregio direttore, sono indignata e spaventata. Stamane, cioè ieri, alla stazione di Roma, treno delle 12.50 Freccia Argento per Venezia, sul marciapiede del binario una cinquantina di zingari strappavano letteralmente i bagagli di mano ai turisti, che intimoriti accettavano di farsi aiutare. A un turista che non ha accettato hanno anche sputato sulla gamba. Nella carrozza di prima classe ho trovato 30 di questi signori, ai quali ho urlato di scendere immediatamente. Mi hanno minacciata. Stessa sorte a un addetto delle ferrovie che li cacciava dai binari. È intervenuta la polizia che ci ha detto di averne altri 50 in ufficio da identificare. Che sta succedendo? Niente, cara signora. Ci sono delle persone che pensano di essere impunite. E c'è qualcuno che propone, come ieri qui alla Zanzara, addirittura di... Beh, come risolviamo il problema? Beh, è una cosa diversa. Di fare una cooperativa Rom. Ma di cosa stiamo parlando? Questi qua vanno presi e vanno cacciati a calci nel sedere dalle stazioni. Vanno messe le barriere per entrare alle stazioni. Vanno fatti controlli ferri, perché non è che uno può subire queste cose qui. No, questa signora non è che sta vaneggiando, sta raccontando delle cose vere. Sì o no? Non me moleste moschito. Oh, ma abbiamo con noi uno dei personaggi del giorno, Simone Coccia Colaiuta. Buonasera. Buonasera a voi, ciao. Ciao. Allora, lei quanti anni ha? 30 anni mi sembra, no? 31 ad agosto. Diamoci del tu, diamoci del tu, dai. Va benissimo. Allora, 31 ad agosto, ex, come si legge qui, ex uomini e donne, come sì. si può dire? Ex partecipata, sì. lei che fa? L'attore di... Sì, attualmente lavoro come attore, sono in contratto con una produzione cinematografica americana. Allora, lei è di sinistra un po', del PD? È un po' di sinistra, no. lei o no? Sì, assolutamente sì. Cioè, vota PD? Sì, certo. Vota Renzi. Allora, certo. Che tipo di amicizia ha lei con la senatrice Pezzopane? 54 anni, separata, nostra amica, una persona sì. molto spiritosa, eccetera. Che tipo di amicizia c'è? Perché qui oggi una delle notizie principali è questa vostra amicizia molto affettuosa, si è letto, no? O amore? Sì. Ma no, no, io confermo la prima, siamo molto molto amici, ci conosciamo da moltissimi anni perché comunque apparteniamo alla stessa città, sì. e diciamo l'amicizia è nata due mesi fa, ecco, si è approfondita due mesi fa perché c'è stata un'occasione in un bar di un aperitivo siamo ritrovati, sì, ci siamo ritrovati nello stesso contesto scambiando due chiacchiere, insomma è nata una simpatia, sì. normalmente come tutti quanti ci siamo scambiati i numeri. Vabbè, vi siete scambiati noi, poi vi siete visti, gite in bicicletta, ho visto. Sì. Foto al mare. Sì, sì, vacanze in montagna, vacanze in mare, ce ne saranno anche altre. Questo lo posso Vabbè, dire. Simone, scusami un attimo, però adesso non è che noi qui siamo uomini di mondo, non è che siamo nati ieri. Che tipo di amicizia è? Adesso la senatrice Pezzopane, al di là della differenza di età, che non c'entra niente, a lei pesa questa differenza di età? Ma guarda, io credo una cosa, ad oggi la differenza di età non si vede in un rapporto di coppia dove c'è amore, non credo che sia un problema in un'amicizia. Un'amicizia, amicizia. Tu continui a dire sì. amicizia, amicizia. No, io non è che continuo a dirlo, io lo confermo. Poi se giustamente dall'altra parte la interpretano diversamente, sono padroni di pensarla ciò che vogliono. Noi sappiamo la verità, per cui. Vabbè, ma ci sarà qualcosa in più di un'amicizia molto molto affettuosa? Guarda, ti devo essere sincero, sì, una bellissima amicizia. Ma ti piace lei come donna? Bellissima. Come donna ti piace? Ma è una persona fantastica, non aggiungo altro. Una persona fantastica, cioè ti ci vorresti fidanzare, questo, ti ci vorresti fidanzare con la senatrice? Un bellissimo rapporto di amicizia e continuiamo a viaggiare su questa lunghezza d'onda. Capito, Parenzo? Qui... No, ma io l'ho capito, sei tu che lo capisci, perché non riconosci che esiste l'amicizia tra no, uomo e donna. Io riconosco, no, ma io riconosco assolutamente. Credo che appunto abbiate visto le foto, non ci sia nulla di compromettente. Che beh no, beh no, ma certo. Un qualcosa in più dell'amicizia, poi questo è il beneficio del dubbio che c'è. Ma no, ma è che, diciamo la verità, è che voi fate venire il dubbio, non è che queste foto sono state diffuse così per caso, dai. No, no, guarda, Simone. Io metto le cose in chiaro, indipendentemente. Mettiamole in chiaro, ma tu sei fidanzato a 30 anni o no? Non ho capito, scusa. In questo momento sei fidanzato? No, sono felicemente single, per scelta. Per scelta. Assolutissimamente sì. Ma allora, che c'è in comune tra uno che ha fatto lo spogliarellista, ma lo dico mica in senso negativo, assolutamente, a uomini e donne e una senatrice del Partito Democratico? Ma guarda, io credo che innanzitutto premetto che questa è una situazione nata proprio con un velo molto trasparente. Un velo trasparente, sì, che vuol dire? Il discorso è questo qua, è bello che nel mondo ci siano anche delle diversità, perché c'è sempre sì. il giudizio di tante situazioni. C'è l'incontro tra gli opposti, dici tu. Ma è normale, viviamo in un mondo in cui appena c'è una nuova notizia subito deve essere tra virgolette screditata, perché ci sono due persone. No, che screditata, per carità. No, guarda, ma magari fosse vero che voi vi fidanzate, 24 anni di differenza, mondi diversi, la senatrice anti-berlusconiana del PD, eccetera eccetera. A voglia te. Guarda, io credo che il discorso sia questo. Oggi, vivendo di pregiudizi, molte persone non hanno l'istinto di seguire, diciamo, il proprio istinto, e allora sono bloccati dal parere esterno. Questo, ad esempio, in questa attuale situazione che è nata attorno a Stefania, che come le foto possono... Ma secondo te lei è bella? Come è bella? Fisicamente la trovi bella? Io non l'ho mai vista da vicino. Oggettivamente parlando, ogni persona ha la propria bellezza, non è che si va bene se sei bella, se sei brutta, se sei vecchia. Cioè, in teoria ti potresti fidanzare con lei? In teoria. Ma io questo è un argomento che attualmente non ci interessa, perché vi siamo già messi, cioè ti potrei dare delle risposte che obiettivamente parlando non vengono da me, quindi non è un argomento che io e Stefania personalmente abbiamo parlato. È nata un'amicizia, ci godiamo l'amicizia, la mettiamo in luce, non perché dobbiamo creare delle situazioni, ma è anche giusto che un politico, indipendentemente dal suo lavoro, abbia una vita privata come ce l'hanno tutti. Ma no, vabbè, certo. quello è chiaro. No, questa cosa un po' di pubblicità però ti ha fatto, dai, diciamo la verità. No, ma a me della pubblicità, indipendentemente dalla non pubblicità, te ne frega niente. Non me ne frega nulla, anche perché la mia pubblicità è ben altro piuttosto che fare gossip. I gossip li fanno addosso a noi, ce li fanno perché, ti ripeto, come... Vabbè, le foto ragazzi, non è che l'ho pubblicata io, cioè, l'avete messo... No, l'ho pubblicata io, ne pubblicherò anche altri, non è questo, ma il discorso che poi la gente le può interpretare come vuole. Tutti quanti siamo abituati a fare delle esperienze, di viaggi, certo. Hanno il vizio di pubblicare le foto, lo facciamo noi, siamo... Ma è normale, ma io ti ripeto, non c'è nulla, se non c'è una bellissima amicizia, ci sono anche nuovi progetti per altri viaggi. No? Va bene, grazie Simone, a presto. Ciao. Anche tu pensi che Berlusconi sia come... Cioè, anche tu hai un giudizio negativo di Berlusconi come Stefania, no? Ma guarda, io, visto che le cose sono uscite alla luce, credo che sia più uno scandalo che Berlusconi sia andato con una minorenne, che la Pezzopane è un'amica di un trentenne, quindi questo è quanto. Cioè, è più scandaloso Berlusconi con le minorenni piuttosto che... Vabbè, ma questo è indiscutibile. Vabbè, quello è chiaro. Noi siamo stati paragonati dopo la figura puntini di Berlusconi, in quel caso con la Rubbi, adesso lo scandalo della Pezzopane, ma di cosa? La Pezzopane ha 54 anni, io ce n'ho 30, di scandaloso non ne vedo nulla. Ma no, ma chi ha detto? Chi ha fatto questo paragone? Dove l'hai letto sto paragone? Dappertutto. Vabbè, ma che paragone è? Ma una puttanata questa? Però magari, ti ripeto, gli esponenti politici sono sotto torchio in qualunque movimento, adesso è scandaloso anche una senatrice che si va a fare la vacanza. Io ritengo, il discorso, ridicoli coloro che pensano questa cosa, per cui... A meno male, ma anch'io il paragone che non esiste. Ciao Simone, ti devo lasciare. Ciao. Allora, dove andiamo? Riccardo da Mantova, per chiudere, dai Riccardo, veloce. Sì, buonasera. Vai. Niente, volevo solo dire che in riferimento all'unità, ogni lavoratore ha sacrosanto diritto di difendere il suo posto. Sì, però? Però io... Ho 33 anni, lavoro per un'impresa artigiana, a settembre avrò un figlio e vorrei che Matteo intervenisse per garantire la certezza dei pagamenti. Bravo, ci sentiamo domani 18:30. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ullala ragazzi, buonasera. Radio 24. La passione si sente.